away like running water. Live for the pleasure, live by the gun. Heritage for son and daughter, down to the slaughter. Up for the fun, up for, up for anything. Questa è Banda Armata, volevo ricordare che andiamo in diretta sulle frequenze di Fuori Onda Radio e in replica su Radio Ciroma giovedì alle 16.30 e la sera alle 21 su Radio Transiziano di Fase. 2 giugno dell'81 moriva Rino Gaetano, l'incidente stradale, e volevo dedicare questa canzone a Rino Gaetano. Questa è la tua prima canzone che parla in maniera profetica di personaggio che muore stradale, che è diventato da 5 stradali, come... Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada, quando un'auto veloce lo investì. Quell'uomo lo aiutò, per un ospedale che lo curasse per guarir. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, io ero al bar. La strada molto lunga, s'andò al San Camillo e lì non lo mollerò per l'orario. La strada tutta scura, s'andò a San Giovanni. Non l'accettarono per lo sciopero. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, io ero al bar con l'alba. Le prime